Mi vuoto e mi rivuoto, sospirando. Passo le notti interi senza sonno. E libidizzito vai contemplando. Mi passa di la notte sino a giorno. Pittia non posso ora che io dormire. Pace non vecchio sta afflitto cuore. Lo sa quando che io taglio a lassare. Quando la vita mia finisce e muore, e lo sai quando che io dai a lassare. Quando la vita mia finisce e muore, mi vuoto e m'arrivoto sospirando. Passo le notti interi senza sonno. E libidizzito vai contemplando. Mi passa di la notte sino a giorno.